La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, è finita da 2 anni e io non mi rassegno. Lui è rimasto il mio pensiero fisso, ogni parola, ogni gesto fra noi è qui con me. Lui ha un'altra, ha un figlio, ma io mi ostino a pensare che nessuna può sostituirmi nel suo cuore, come nessuno potrà mai sostituire lui. Bruna. Cara Bruna, se ti vuoi fare monaca di un ricordo, sei libera e nessuno te lo impedisce. Io però, rispetto a queste fissazioni che non finiscono mai, di un amore perduto, di un amore finito, io la penso come Sonia Ferro, psicanalista, scrittrice, e mi riferisco al suo libro Il sogno delle bambine infelici, dove sostiene che l'amore indimenticabile è una scusa per non amare più nessun altro, per chiudersi, per votarsi a questo egoismo nostalgico. Certo, è sempre un grande strappo quando finisce una storia. Si soffre, è come rompersi una gamba. In certi casi è come uno sparo in pieno petto. Però se non si muore, poco a poco le ossa si saldano, i tessuti si ricostituiscono e soprattutto l'immaginazione va avanti, trova altre forme, non si mette nella tomba di se stessa. Tempo fa, rispondendo a una lettera sul settimanale A, a una tua collega di inconsolabilità, per uno che se n'è andato, e lei dice sempre «ho paura che non troverò uno come lui», ti leggo la risposta che le ho dato. Si chiamava Alessia e si concludeva con la frase fatale: «Ho paura che non incontrerò mai nessuno come lui». E ad Alessia ho risposto: «Ma va! Cioè, di uomini che non ti amano ce ne sono tantissimi. L'impresa vera è trovare uno che ti voglia bene. Oh, e poi così è per tutti, eh». Dico ad Alessia: «Tu non sei illusa, sei testona, affezionata al recinto strettissimo del pensiero di voi due al passato». Ora, ma io ti chiedo però, ma come fai a pensare ancora a uno che si annoia con te? Ma non ti annoia? Ora, basta, finito. Si soffre, poi si cambia. Se si incarnisce il rimpianto, come dice Sonia Ferro, diventa una scusa per non amare più nessuno, in nome dell'impossibile. Fuori di questo uomo insostituibile, il mondo è sempre vivo. Risuscita anche tu. È come nell'ipnosi. Basta uno snap, così. E libera. Ora, però, devo dire la verità. Mentre ti parlo, già sto cambiando idea. Perché? Diciamo che basta uno snap quando succede agli altri. Allora è facile. Quando non tocca a noi, basta uno snap. Invece quando tocca a noi, ci inseguono i diavoli su per le scale, non ci lasciano neanche dormire. E chi è nella trappola di un amore disperato, che poi finisce quando vuole lui. Non si sa perché. Avevamo letto tempo fa, vi avevo letto la storia di nonna Tonina, tratta dal mio primo libro, Memorie malvagie. Bisnonna Tonina era rimasta vedova del bisnonno Ruggero, questo bellissimo uomo caduto da cavallo, di cui ricordo questo ritratto con i capelli ricci, questi baffoni. Si vede anche in foto, pur essendo in bianco e nero, che doveva essere un bellissimo uomo dai capelli rossi. E lei rimane vedova ed è inconsolabile, per 2 anni non parla. Tira su suo figlio e Eugenio, fratello minore del marito, che è quasi coetaneo del figlio, e non si rende conto, poco a poco, che Eugenio è innamorato pazzo di lei. Fa finta di niente, finché rileggo un pezzettino per poter entrare nella storia, finché Eugenio portò fiori bianchi alla bisnonna Antonia. Lei, che non parlava da 2 anni, finalmente parlò per dire «grazie, figliolo». Lui la baciò sulla bocca. Prima di diventare amanti, piansero senza toccarsi. Prima di chiudere la finestra, già un poco ridevano. La bisnonna Antonia sapeva il proverbio amore e dolore. Quando suo cognato Eugenio, e abitavano loro a Figline Valdarno in Toscana, quando suo cognato Eugenio le disse che partiva per l'Olanda, per via del commercio, lei non si disperò. Eugenio insistette perché Antonia andasse a vivere con Quintilio e Isadora. Lei non capisce lì per lì che lui se la vuole levare dai piedi. Lei avrebbe preferito non cambiare città, ma voleva ricordarsi di aver obbedito per amore e ci andò. Eugenio si profonde in grandissimi giuramenti. Eugenio giurò che non l'avrebbe tradita, che sarebbe tornato, che se il destino li avesse tenuti lontani, mai si sarebbe sposato. Lei non aveva niente da giurare e tacque. E quindi va a stare in Umbria dai suoi figli. Aspettò, misurando i giorni che diventavano anni. Quando rivedeva l'inverno il sole, era come rivedere Eugenio. E si stupiva d'essere viva. Poi si stupì delle rughe, del suo viso che diventava un altro, della gente che passava sotto la finestra e nessuno di loro era Eugenio. Mai si stupì che il suo amore continuasse, come continuava la polvere sul suo letto di donna stupita. Una volta per Pasqua venne un parente da Firenze. Raccontò delle macchine a motore, degli amici, della città che si era fatta più bella. Raccontò di Eugenio, che aveva sposato una ragazza, lui, che ormai era un vecchio per bene. Antonio smise di stupirsi. Andò a letto, era stanca. Morì con la finestra aperta. Il tempo era bello. Ma questa è un po' la trasfigurazione letteraria. Io so qualcosa di più sulla morte di nonna Tonina, a proposito appunto del fatto delle stupidaggini che si dicono, che dico anch'io, per insofferenza, a chi non riesce a consolarsi di un amore che continua sempre. Ecco, la bisnonna Tonina, me l'ha raccontato la nonna, prima di morire pare che si sia girata verso il muro dicendo, col suo accento toscano, evidentemente a Eugenio, «E dai, Nini, abbi pietà!» rivolgendosi a lui come se fosse stato lì, come se ci fosse sempre stato, ma anche rivolgendosi a lui come a una divinità, pregandolo di farla morire libera. E sua nuora, mia nonna, invece del dottore, che tanto ormai che poteva fare, ha chiamato l'esorcista proprio per liberarla dal pensiero di questo amore. Però l'amore è un demone molto furbo e non uscì. Tanto che, mi disse la nonna, che la bisnonna Tonina morì con un'espressione soddisfatta, come dire, ce l'ho fatta, sono libera. E mi descrisse un'espressione di orgoglio, però non un orgoglio arrogante, un orgoglio pieno di pudore. E disse prima di morire, Elvira, mi raccomando che Eugenio non sappia che sono morta perché ho saputo che si era sposato. In verità, Eugenio lo seppe e fu molto sollevato della sua morte. Fece una festa a Figline Valdarno, era libero. A lui non importava nulla di come era morta. Quel lontano rimorso quando l'aveva confinata coi figli. Perché Figline Valdarno e Umberti di allora erano delle distanze invalicabili per una donna senza mezzi che dipendeva dai figli. Era come l'avesse mandata alla Cayenna a scontare il suo amore per lui, quella testarda. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Mi farò chiamare ABC, che sono le mie iniziali. Mi piace questo ABC, perché mi rispecchia. Sono sempre stata un apprendista, nonostante i miei 41 anni. Io e mio marito siamo arrivati dalla Romania 13 anni fa, lasciando la bambina di 3 anni con i nonni. Lavoro duro. Abbiamo ottenuto l'equipollenza della laurea. Arrivo della bambina, suo difficile inserimento. Mio marito faceva il saldatore, intanto studiava al Politecnico, finché è diventato ingegnere. Io una sgobbona, una staccanovista, ma non trovavo nel lavoro le soddisfazioni attese. Una donna, per giunta straniera, non ottiene riconoscimenti in un ambiente maschile al 100%. Intanto sono nati altri due figli. Mio marito ha messo su un'impresa e ci siamo messi a lavorare insieme. Da qui inizia il mio tormento. Lui si è trasformato in un padrone. Non fa che sgridarmi e rinfacciare, liti tremende. La sua freddezza mi fa male. Lavoro tantissimo, 15-16 ore tra casa, bambini e società. Ho imparato che la gente può cambiare, e lo spero, ma mi sento sola e disorientata, io che mi spacciavo per coraggiosa. Forse mi basterebbe di poter avere un po' di tempo, il tempo solo per me, parlare e scherzare con qualche amica. Ho una grande fortuna, amo i libri e i film. ABC. Beh, non è che ne leggerai tanti, con questi ritmi di lavoro. Io, ABC, ti chiedo scusa, perché quello che lo speaker di Radio 24 ha letto è un riassunto della tua lettera. Era troppo lunga e troppo piena di dettagli sui vostri lavori, sul titolo di studio. Però mi è dispiaciuto perché era molto ben scritta, in una lingua ariosa, spiritosa, originale, e in una lingua che poi non è la tua, e che padroneggi molto bene e che rispecchia questa intelligenza viva e lucida e anche fantasiosa. Il fatto è che il comportamento canagliesco di tuo marito si è pietrificato. Ormai, come scrivi tu, è un padrone e non ti riconosce diritti, non ti riconosce dignità e manco si vergogna di farsi vedere da te ingiusto, torturatore e anche un po' sfruttatore. Lui non si cura di piacerti. Insomma, non ti rispetta. Il rispetto è come la verginità, si perde una volta sola. È difficile cambiare questa situazione senza un trauma, senza una rivolta. Ci vuole il terremoto. Lui ha fatto di te la sua bestia da lavoro. Ha fatto di te lo sfogo, il punching ball da scazzottare quando gli pare. Solo che tu i cazzotti li senti. Io non so se sia possibile che un cuore indurito e così insensibile nei tuoi riguardi possa tornare alla complicità o alla tenerezza. Voi state tirando su 3 figli. È un progetto che richiede alleanza, altrimenti è un massacro. Per i ragazzi intanto e poi per il più debole, che sei tu. Debole nel senso che ti ha messo i piedi in testa. È una debolezza apparente, ma se tu per una settimana dovessi mancare, l'impalcatura, vum, verrebbe giù di colpo. La sua insicurezza di maschio, guarda, meno qualche santo e qualche uomo pieno di una semplice divina salute, sono insicuri tutti. E questo insicuro appunto ha bisogno di credere che l'asse portante è lui. Io voglio vedere senza le tue 16 ore di lavoro quotidiano, senza la tua intelligenza, senza la tua pazienza. Ora, parlare d'amore mi sembra fuori luogo. Quella freddezza di lui è spietata, è la freddezza tremenda di quando uno proprio non ti vede più. Io non ti dico di andartene perché sei prigioniera 2 volte. Il tuo lavoro è in famiglia e poi c'hai 3 figli. Dove vai? Ma lui ha in casa un cavallo di razza e gli fa fare il somaro. Ti ha messo il basto. Tu, il lavoratore sfruttato e angariato. Lui, lo sciurparunda, li belli braghi bianchi. Devi fare sciopero. Io non so in che forma. E se proprio, proprio non c'è via d'uscita, cercarla, scavarsela, pensare con calma, ponderatamente, organizzandosi a una separazione. Tu ti devi sviluppare, così sei chiusa da ogni parte. Dall'oppressione non si esce senza una rivoluzione. Chi detiene il potere mica lo molla gratis. Ma ha fatto una gran tenerezza in quel finale dove il sogno di una donna di oggi, di 40 anni, intelligente, che ha studiato come te, sia avere un'ora per te, fare 4 chiacchiere con un'amica. Adesso voglio chiamare Tiziana Loporto. Tiziana Loporto è una ragazza con una grandissima chioma nera tutta riccia dai rinni, con gli occhi di fiamma, che ha una grandissima esperienza in un ramo di cui non so nulla ed è il teatro dei pupi. Tra l'altro Tiziana è traduttrice dall'inglese e dal francese, un libro che ha tradotto per esempio è Radical Chic di Tom Wolfe, e adesso uscirà da Minimum Fax Super Zelda, che io corro, sarò la prima a comprarmelo, ed è la vita di Zelda Fitzgerald con i testi scritti da Tiziana e le illustrazioni di Daniele Marotta, cioè la vita di Zelda a fumetti. Voglio proprio vederla. Buongiorno Tiziana, ciao. Ciao. Senti, mi riracconteresti un po' la tua esperienza con i pupi che mi aveva tanto colpito, il fatto che hai anche trovato un maestro di questa antica arte. Verso la fine degli anni 90 vivevo a Palermo, un giorno un po' per caso, per amici comuni, mi sono ritrovata a lavorare per Mimmo Cuticchio, che è un puparo contista che abita a Palermo, molti lo conosceranno, avranno visto i suoi spettacoli perché fa spettacoli sia tradizionali di teatro dei pupi e cunto, sia spettacoli di teatro normale portando in scena però i pupi, e per 3 anni ho lavorato per lui come drammaturga, come aiuto regista. Cos'è il cunto? Il cunto è una forma di teatro, di narrazione in cui si possono raccontare, tradizionalmente si raccontano le storie dei paladini di Francia, però che può essere applicata per qualunque narrazione, quindi dall'Odissea a fatti di cronaca a una partita di calcio. Ed è una forma di narrazione di tradizione orale, quindi tramandata oralmente, non codificata e non imparabile se non seguendo un maestro, con dei ritmi particolari per cui in scena c'è soltanto il cuntista, narratore, con una spada racconta l'episodio che può durare 20 minuti come un'ora, e poi la voce ha dei ritmi spezzati con una cadenza particolare nelle scene di azione. Quindi non so, magari se c'è la storia dei paladini, se c'è l'episodio di Roncisvalle, nelle scene più drammatiche in cui muoiono i paladini, si sente che cambia il modo in cui racconta. E cosa hai imparato dal Mimmo Cuticchio? Innanzitutto ho iniziato a studiare e leggere la storia dei paladini di Francia, che è una storia bellissima e che secondo me è assolutamente formativa, dovrebbe essere parte dell'educazione sentimentale di tutti. Ho imparato sicuramente l'arte della narrazione, perché Mimmo Cuticchio è un uomo di teatro e soprattutto è un narratore capace di raccontare qualsiasi cosa in maniera di altri tempi, direi. Lui basa tutto sull'improvvisazione. La cosa stranissima che mi ha stupito quando ho iniziato a lavorare lì è che improvvisava anche durante la messa in scena degli spettacoli di pupi. Per cui lì, infatti, il mio lavoro era scrivere un canovaccio in cui scrivi la sequenza di scene, gli oggetti di scena, cioè è fondamentale avere tutto a portata di mano perché ci sono circa 10-12 scene per ogni spettacolo, però non scrivi dialoghi. E siccome tutte le voci le fa il primo puparo ed è in prima quinta a sinistra, da lì appunto lui muove alcuni pupi e poi fa tutte le voci, i personaggi maschili, femminili, gli animali e tutto quanto, e improvvisa. Difficile trovare qualcun altro in grado di farlo, perché comunque nel teatro sei sempre vincolato alle battute degli altri. Puoi sì fare delle improvvisazioni, però non puoi navigare a vista. Senti, ma è un'arte in estinzione? Non la voglio considerare tale. Ci sono degli allievi molto bravi che lavorano con Mimmo, suo figlio è diventato un puparo bravissimo. Quindi c'è un futuro? Sì, io un futuro lo vedo, e poi credo che le cose non si estinguono fin tanto che si trasformano. Per cui molta gente considera le cose nuove, la sperimentazione, un tradimento della tradizione. Invece se uno riesce a trasformare le cose, ecco, garantisce lunga vita anche alle tradizioni. Tu hai prima accennato una cosa che mi ha molto colpito, ovvero sia tu dici la storia dei paladini di Francia dovrebbe far parte dell'educazione sentimentale dei giovani. Per te è stata così? È stata un'educazione sentimentale? Per me è stata assolutamente un'educazione sentimentale, perché lavorando lì intanto si è creata questa situazione in cui Mimmo è nato in un teatro dei pupi, è cresciuto insieme ai pupi, per cui ha un rapporto quasi umano con i pupi, cioè per lui sono fratelli e sorelle, questa cosa te la trasmette, quindi la prima cosa che impari intanto è una sorta di rispetto di sacralità, cioè devi rispettare il pupo e non considerarlo semplicemente un oggetto come può essere in un museo. Quindi il fatto che tu nel momento in cui lo metti in scena gli dai vita è un riconoscimento di alterità, lo consideri come un altro e quindi ti affezioni poi alla fine, per cui diventa lì, quando non sei lì, quando io poi sono andata via da lì e non lavoravo più lì, ecco, mi mancavano le persone che lavoravano lì, ma mi mancavano anche i pupi, e ogni pupo ha una sua storia, un suo percorso che poi fai... Ha una personalità, io poi ero assolutamente innamorata di Rinaldo, tra l'altro il Don Chisciotte l'ho letto dopo e ho scoperto appunto questa mia affinità con Don Chisciotte, questa forma di ossessione per Rinaldo che è il paladino più anarchico, anomalo, perché mentre tutti gli altri sono fedeli a Carlo Magno, Orlando, Bradamante, Oliviero, Ruggero... Lui a un certo punto vede una immagine di una donna bellissima, che è la figlia del re delle Indie, che si chiama Clarice, e si innamora, però non l'ha mai vista. Quindi abbandona così di punto in bianco tutti i paladini e Carlo Magno, e con un suo amico che si chiama Florindo fa una sua crociata in nome dell'amore. E poi durante questa crociata, che dura nella storia che hanno trascritto dei paladini e negli spettacoli tradizionali vari episodi, lui combatte draghi, salva principesse, fa tutta una serie di cose che farebbero normalmente i paladini però per Carlo Magno, e lui lo fa per questa donna che poi alla fine riuscirà a conquistare, verrà perdonato da Carlo Magno, che anzi gli regalerà poi un feudo delle terre e tornerà tra i paladini. E mi dicevi l'altra volta che aveva veramente segnato proprio la tua concezione dell'amore, che era diventata terribilmente idealista in amore per influenza dei paladini. Sì, questa non so se è una cosa bella, però è giusto che ci sia anche una parte, poi nella realtà uno si trova a mediare, però se riesci sempre a non essere cinico, essere idealista e soprattutto voler fare le cose, cioè Don Chisciotte si innamora di una donna che non c'è, però le fa, le cose, sono le cose che lo muovono. C'è un saggio bellissimo di Turgenev su Don Chisciotte e Amleto, c'è Amleto che è concentrato su se stesso, quindi non riesce ad amare altri che se stesso, infatti Ofelia non la riesce ad amare, invece Don Chisciotte riesce ad amare soltanto attraverso gli altri. Ecco, tra le due figure io preferisco Don Chisciotte, questa cosa l'ho imparata lì, da Rinaldo. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. 32 anni, carina, intellettualmente vivace, è segnata da una storia finita male. Fino a quando 2 anni fa qualcuno ha riacceso una luce in me. Qualcuno di sbagliato, però. Un ragazzo sposato che non si è mai dato fino in fondo, che è stato formalmente corretto nel non farmi promesse, ma che allo stesso tempo non mi ha lasciato mai veramente andare del tutto. Mi accende la sua vitalità, il suo essere brillante in mezzo alla mediocrità che abbonda e, cosa non trascurabile, mi attrae molto. Ho perso tutte le occasioni che ho avuto per mettere un punto uscendone vincitrice e rimango legata a questa finta presenza che ogni giorno, perché lo vedo ogni giorno, mi indebolisce sempre di più. Come uscire da questo torbido pantano? Alice. Ti do subito le istruzioni. Devi mettere fuori prima una mano, poi un'altra. Ti devi aggrappare a qualsiasi spigolo, rametto o coda di cane che passa, senza perdere la pazienza quando scivoli, perché il fango è insidioso e ti fa risprofondare, ma tu ricominci piano piano, con l'aiuto di uno strumento indispensabile, senza il quale non se ne esce. Devi volerlo veramente. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Mi fa legare i denti sentirla sempre magnificare le donne senza le donne. Sono stato per 4 anni con una ragazza bellissima, ma molto ingrata. La coprivo di regali, il computer, il telefonino ultimo modello, vacanze in alberghi a 5 stelle, una collana da 4.000 euro, perfino una mountain bike da 700. Lei mi diceva, mi metti in imbarazzo, piantala, però li prendeva. E poi si seccava pure, che gli dicevo il prezzo. Ma al momento buono, quando ho deciso che era ora di sposarci, lei si è tirata indietro, ma non so, finché mi ha mollato. Io ho fatto il diavolo a 4 e mi ha fatto pure lo sfregio di rimandarmeli questi regali con un biglietto ironico da vera stronza. Io le ho dato tutto, e lei. Odino. Oh, t'ha rimandato tutto, bravissima. Che poi vale anche meno, adesso che è usato, in tutti i conti che fai lo devi mettere in conto. Allora, c'è ancora qualche ragazza saggia e spiritosa. Mi resta la curiosità di sapere cosa t'ha scritto, perché doveva essere qualcosa di molto bruciante, se non neanche lo dici. Tu non volevi fare i regali, Odino. Vedo che ti sei scelto uno pseudonimo da Dio, ma non è che volevi fare i regali. Tu segnavi il tuo territorio, tu la volevi comprare coi regali. Tu sei un avaro che faceva il generoso, uno che segna tutto. Avrai pure dato, ma quanto hai rinfacciato. Il rinfaccio è premio se stesso. Chi dà e rinfaccia rinuncia alla gratitudine, perché il rinfaccio annulla il beneficio. E poi dici, le ho dato tutto. Ma scusa, ma tutto cosa? Tu hai speso, hai soltanto speso, eppure facendoglielo pesare. Che pezzente. Tu non hai idea cosa voglia dire voler bene e neanche cosa sia il dare. Invece Giovanni Boccaccio lo sapeva. Quando racconta la storia dell'amore di Federigo degli Alberighi, nella novella nona del 5° giorno del Decamerone, c'è il rapporto qui tra l'amore e il dare. È la storia di questo gentiluomo che si è rovinato per abbagliare la sua donna con feste e altro e non ha ottenuto nulla, e poi vediamo come continua. In Firenze fu già un giovane chiamato Federigo di Messer Filippo Alberighi, in opera d'arme ed in cortesia pregiato sopra ogni altro donzel di Toscana, il quale d'una gentildonna chiamata Monna Giovanna si innamorò, nei suoi tempi tenuta delle più belle donne che in Firenze fossero. E da ciò che egli l'amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste e donava, ed il suo senza alcun ritegno spendeva. Ma ella, non meno che onesta che bella, niente di queste cose per lei fatte, né di colui si curava. Spendendo dunque Federico, oltre ad ogni suo potere, molto, e niente acquistando, le ricchezze mancarono. Insomma, il povero Federico perde tutti i suoi beni, gli rimane solo un miserabile poderetto nel quale dignitosamente si ritira ed ha una sola consolazione ed è anche una sola fonte di vita, il suo falcone. Un meraviglioso falcone che lo fa cacciare, che quindi gli permette di sopravvivere e che è anche una bellissima compagnia ed è bello a vedersi, insomma, un compagno perfetto. Intanto il marito della sua amata muore. Muore lasciando la vedova con un figlio. E questo figlio in campagna fa amicizia con Ser Federigo e gli piace moltissimo il suo falcone. Perché avvenne che questo garzoncello si incominciò a dimesticare con Federigo e a dilettarsi d'uccel e di cani. Ed avendo veduto molte volte il falcon di Federigo volare, e piacendogli, forte desiderava d'averlo, ma pure non s'attentava a domandarlo, veggendolo a lui esser cotanto caro. A un certo punto il ragazzino si ammala gravemente e dice una cosa che strazia una madre, no, ovviamente. Madre mia, se voi fate che io abbia il falcone di Federigo, io mi credo prestamente guarire. E quindi la salute del figlio dipende dalla faccia tosta che avrà monna Giovanna dopo che lui si è rovinato per lei e lei neanche un sorriso, di andare a chiedere questo grande favore. Come manderò io o andrò a domandargli questo falcone, che è, per quel che io oda, il migliore che mai volasse, ed oltre a ciò il mantiene nel mondo. Però, dato che il bambino, soltanto a parlare di questo falcone, già gli è venuto un po' di rosa alle guance, già si è sentito meglio, la madre non resiste e con tutto il suo coraggio va nella casupola, nel poderetto di Federigo, e naturalmente non è che dice subito che cosa vuole. Federigo sta, come sempre, sta facendo il contadino, perché è l'unico servente di se stesso, tutto pieno di terra, così va ad aprire. Egli prende un colpo. La donna che sta in cima ai suoi sogni, quella ai piedi della quale invano ha messo tutto ciò che aveva, è lì davanti a lui, con una signora, con una dama che lo accompagna, e gli dice che vorrebbe pranzare lì. Non crede ai suoi occhi, però le fa accomodare e poi, sconvolto, comincia a rovistare per la casa e non c'è niente da mangiare. Non c'è niente che possa offrire a questa donna. Niuna cosa trovandosi di che potere onorare la donna, ed oltremodo angoscioso, seco se stesso maledicendo la sua fortuna, come uomo che fuor di sé fosse, or qua or là trascorrendo, né danari né pegno trovandosi, essendo l'ora tarda, gli corse agli occhi il suo buon falcone, il quale nella sua saletta vide sopra la stanga. Perché, non avendo a che altro ricorrere, presolo e trovatolo grasso, pensò lui esser degna vivanda di cotal donna. E però, senza più pensare, tiratogli il collo, ad una sua fanticella il fe prestamente, pelato ed acconcio, mettere in uno schedone ed arrostir diligentemente. E quindi finalmente fa la bella figura, col cuore a pezzi, però finalmente può offrire qualcosa di degno alla sua donna. Fanno questo bel desinare. Lui ovviamente ha poco appetito perché gli viene da morire. E finalmente Madonna Giovanna gli racconta perché è andata a trovarlo. Mi conviene chiederti un dono il quale io so che sommamente te caro. Questo dono è il falcon tuo, del quale il fanciul mio si è forte invaghito, che se io non glielo porto, io temo che egli non aggravi tanto nell'infermità nella quale ha, che poi ne segua cosa per la quale io il perda. La reazione di Federigo è molto bella. E Federigo, udendo ciò che la donna domandava e sentendo che servir non ne la potea, perciò che mangiarglielo aveva dato, cominciò in presenza di lei a piangere, anzi che alcuna parola risponder potesse. E c'è questo pianto disperato, inconsolabile. Monna Giovanna pensa che piange per la richiesta che lei ha fatto, perché non vuole separarsi dal falcone. E poi lui le dice la verità. Madonna, come io udii che voi meco desinar volevate, avendo riguardo alla vostra eccellenza e al vostro valore, riputai degna e convenevole cosa che con più cara vivanda, secondo la mia possibilità, io vi dovessi onorare. Perché, ricordandomi del falcon che mi domandate e della sua bontà, degno cibo di a voi il reputai. E questa mattina arrostito l'avete avuto in sul tagliere. Me sì granduolo, che servire non ve ne posso, che mai pace non me ne credo dare. E monna Giovanna, tutta malinconica, si dipartì e tornossi al figliuolo, il quale, o per malinconia che il falcone aver non potea, o per la infermità, non trapassar molti giorni che egli, con grandissimo dolore della madre, di questa vita passò. E quindi abbiamo lasciato Federigo, che sta in questo podretto, ormai senza neanche il suo fratello spirituale, il falcone, però lei è rimasta vedova. È molto ricca e i fratelli la spingono con forza: ti devi sposare, le propongono dei partiti convenienti, e lei dice no, Se a voi pur piace che io marito prenda, per certo io non ne prenderò mai alcun altro, se io non ho Federigo degli Alberighi. Naturalmente i fratelli dicono: ma tu sei matta, ma come, quello non ha un soldo, eccetera. E lei è irremovibile. Fratelli miei, io so bene che è così come voi dite. Ma io voglio avanti uomo che abbia bisogno di ricchezza, che ricchezza che abbia bisogno d'uomo. E così si sposerà Federigo, il quale, così fatta donna, e cui egli amata avea per moglie veggendosi, ed oltre ciò ricchissimo, in letizia con lei, miglior massaio fatto, terminò gli anni suoi. Ecco, ciò detto, vorrei mandare un pensiero al povero Falcone, quando vede lui che si avvicina come al solito e non sa. L'amore comunque rende assassini. Per tornare a te, Odino, questo è dare, il falcone, l'anima sua, non quei 4 soldi che hai speso tu e ancora ci piangi. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. È comodo. Viene a cercarmi solo se non deve cambiare i programmi fatti dalla sua fidanzata mamma che gli fa da terraferma, in modo che lei non si accorga di noi. Cenano insieme i giorni dispari e qualche volta dormono insieme. Abbiamo avuto una storia poco vissuta, perché con lui c'è poco da vivere, finita presto. Ora ritorna, quando è libero dall'altra, che comunque gli permette un'altra storia nascosta, facendo finta di niente. Viene quando gli va, a lui, senza considerare i giorni in cui mi troverebbe sola. Come mi devo comportare? La pensiamo diversamente. Per lui la convivenza è la tomba dell'amore. Io, al contrario, spero in un quotidiano di coppia più complice e vivace. Mi accanisco sul fatto che lui non sia presente quando io sono libera e arrivi invece il giorno dopo, senza spiegazioni, come se non fosse successo niente. Se lo avessi a disposizione, me ne libererei in 24 ore, perché non mi dà quello che voglio, ma il fatto che non ci sia, poi ci sia, mi accanisce. Lo so che di più non sa dare, che dentro è molto più arido di mio marito. Allora perché mi intriga? Ieri sera non è venuto perché, penso, impegnato con lei. L'impulso sarebbe stato quello di telefonargli, dalla fidanzata, per rompere le palle. Qual è il modo migliore per fargliela pagare a questo brodo di maschio? Speranzosa. Beh, senti, Speranzosa, non contare su di me, perché non sono dalla tua parte. Cioè, va bene, lui è un brodo, ma tu che cosa sei? Sei un ragù? Un ragù che sobbolle ore e ore e poi si fa mangiare zitto? Oppure sei un soufflé che al primo colpo di forchetta si sgonfia? In base a quale superiorità lo giudichi e lo disprezzi tanto? Tu parli di lui in tono derisorio e parli della insignificante e metodica fidanzata come se tu fossi l'esempio di ogni libertà. Ma guarda che è un abbaglio, Non è vero. Se lui ha una fidanzata decennale, tu hai il marito e hai una famiglia alla quale tieni e non sembri affatto disposta a buttare tutto all'aria per amore. Lui vive nella menzogna e tu pure. Lui ha i suoi giorni fissi con la vedova, tu le bugie con tuo marito. Tutti e due vi barcamenate fra una storia fissa, ufficiale e un'altra incerta. Tu scrivi: lui di più non sa dare. Ma tu cosa gli dai? Gli dai le tue serate di ritaglio che scampano al controllo familiare. Ti inferocisci, lo giudichi male perché non corre ventre a terra appena il maschio legittimo si allontana. Io ti parlo così perché dal tuo tono, fino alla fine della lettera, avevo creduto che tu fossi una amazzone senza legami, una guerriera impavida che aveva incontrato uno tiepido. Invece sei una donna che, non essendo libera, pretende dagli altri questa anarchia adolescenziale. Però al tuo servizio, se tu lo amassi, se tu fossi impazzita per lui, in tutto questo ci sarebbe anche una dignità. Invece no, è solo puntiglio. Tu scrivi: se lo avessi a disposizione, me ne libererai in 24 ore. Ma allora ha ragione lui a difendersi. È un genio del sentimento, perché lo ha capito e non ti dà corda. Ma come? Tu lo vuoi solo per liberartene, solo per umiliarlo. Ma sai come si chiama questo? Smania di potere, capriccio tirannico, supervalutazione di sé, frivolezza. Non ti offendere. Io sono sincera come il servo di Don Giovanni. Leporello, quando gli dice: due imprese leggiadre, sforzare la figlia ed ammazzare il padre. Mi sembri una gran capricciosa, altro che speranzosa. Ma speranzosa di che? Di acchiapparlo per distruggerlo? Oh, e un'ultima cosa, e che ne diresti se lui ti telefonasse mentre stai col tuo ignaro marito, così, giusto per rompere le palle, come tu volevi fare con la sua fidanzata. Con mia infinita meraviglia, continuano ad arrivare lettere di ragazze innamorate di un uomo sposato. Questa laida seduzione non finirà mai. Io credevo ai tempi del divorzio che le corna sarebbero sparite, invece fioriscono dovunque. E questa è tratto da un mio libro, che però si riferiva ad una lettera che avevo ricevuto per il settimanale A. Il libro si chiama Il ritorno dei mariti ed è la storia di questa donna che adombra il mio mestiere di risponditrice di lettere amorose, che è una merceria dove tutte le donne vanno lì, non comprano niente, però raccontano tutti i fatti loro. Entra Leslie, ha il naso a punta, il seno, lo sguardo e il culo a punta. Sembra fatta apposta per pungere gli uomini e difatti è corteggiatissima. Però capita sempre con quelli sposati. Destino o mania, appena c'è uno che le piace, infallibilmente scopre che è l'anello al dito. Così viene in negozio a scagliarsi contro la loro vigliaccheria, doppiezze, irresolutezze, eccetera. Ultimamente però un certo Max, sposatissimo, le aveva preso il cuore e lei era diventata più a punta di prima, come un'antenna che capti la felicità. Ma è finita male anche stavolta. Questa è Leslie che parla. Eravamo nel suo piede a terra, sul Tevere. Lui era seduto, nudo, davanti alla finestra. Dietro si vedeva il fiume. Parlava dolcemente, a cantilena, come chi dice il rosario, come fa ogni volta. In ufficio non mi rispettano. Lo stipendio è una miseria e non fanno che detrarre. Il resto se lo mangiano le tasse. Non ho neanche i soldi per mettermi i denti. Ti sarai accorta che me ne mancano due. Mia moglie me l'hanno imposta i miei e mi è stata antipatica dal primo momento. Si è portata dietro pure la madre. Fanno alleanza contro di me. Io sono un estraneo in casa. Mi mettono contro i figli. Sono sempre stato sfortunato. Il più saggio è mio padre. Lui è un amante che lo capisce. Ascolta tutte le sue disgrazie. Lo consiglia. Lo consola. Si vedono una volta alla settimana da 38 anni. Mia madre lo sa, ma chiude un occhio, perché lui dopo è più tranquillo. No come mia moglie, che se ci becca ci ammazza tutti e due, pure. No, questo è il mio commento, Leslie continua. Io ero inginocchiata davanti a lui, con la testa fra le sue gambe. Non potendo parlare, gli avevo dato qualche pizzicotto discreto a significare «E dai, ti pare il momento?» Ma lui continuava e si lagnava. Allora mi sono alzata di colpo, smettendo quella cosa che, modestia a parte, mi stava venendo benissimo. E gli ho detto «Finalmente ho capito perché mi tieni la bocca occupata. Così non ti posso rispondere. Ma come, mi lasci così? Non ti voglio ascoltare per 38 anni. Una settimana mi è bastata. Egoista». Ho aperto la porta. «Troia!» Delia sospira, cioè la padrona della merceria. «O sono mammoni o sono moglioni. Non si scappa». «Ah, ma adesso basta», dice Leslie. «Sì, basta con gli sposati», risponde Delia. E Leslie: «No, basta coi piagnoni». Qui capitane di Aliporto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.